Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Dopo il lockdown e un primo singolo, lui raddoppia e fa uscire due pezzi insieme. Paura di me è così forte, rapper amatissimo, ma non solo. Mecna. Avevo un po' di pezzi abbozzati, diciamo. Appena si è un po' sbloccato tutto, avevo veramente voglia di far uscire un po' di musica. Ho cercato di far uscire insieme due pezzi che insieme ad Ho guardato un'altra iniziano, come dire, a delineare un po' un percorso che, insomma, arriverà sicuramente a un certo punto al disco. Con due pezzi molto simili tra loro, perché ovviamente poi la connection sono sempre io, le mie due anime, quella un po' più cantante e quella un po' più rapper, per non deludere nessuno. Ancora prima di ascoltare il pezzo, e parlo di Paura di me, ho letto le note e ho letto pezzo estivo e ho detto, vabbè, ma cioè Mecna non sei uno molto in mood estivo in generale. No, assolutamente vero, è proprio zero. Però, come dire, l'estate c'è e quindi ho iniziato a farmene una ragione. Poi quest'estate è anche particolare, no? Quindi un pezzo un po' più estivo in un'estate che non è un'estate ci può stare. Diciamo che anche quello fa parte di una mia sperimentazione, ecco. E anche il challenging di fare un pezzo magari un po' diverso mi ha catturato. Chissà se è vero, in un secondo tutto può succedere. Non c'è nessuno stasera, vorrei tornare indietro. Prendo una strada che non so dove mi porta, mille domande senza neanche una risposta. Sembra strano ma è come un viaggio e sono solo. Non so dove sei e dove sono. Le tue parole nella testa scrivono la nostra canzone maledetta. C'è qualcosa in più, hai la forza di tirarmi giù, ma non avere paura di me. Ma non avere paura di... Forse mi sento più a casa in questo tempo. Questi sono due brani fatti con collaboratori anche importanti, con Davide Petrella. Come sono stati fatti tecnicamente? Cioè in solitudine, in compresenza, come sono nati? No, sono nati durante proprio il momento di lockdown, quindi tutto tramite WhatsApp, Zoom, internet, insomma. Molte cose poi in realtà anche prima ci vedevamo per prendere una birra, ma poi comunque i pezzi li facevamo a distanza. I momenti in cui sei in studio insieme si riducono più, almeno per quanto mi riguarda, la parte finale del disco, perché io appunto poi per scrivere devo stare abbastanza per i cavoli miei. Un po' il birrino manca, ma tornerà. Il birrino mancava, sì, tanto. Io mi sono messa anche a guardare l'opera non di Mecna ma di Corrado Grilli, cioè la tua opera da art director, sì, da designer, praticamente il tuo lato B da art director è pazzesco, cioè stai lavorando con tutti. Sì, no, ti ringrazio innanzitutto. Sì, effettivamente sta accadendo tutto in maniera molto veloce e a volte però mi scosto un attimo e riguardo un po' tutte le cose che ho fatto e effettivamente sto lavorando con tante persone. Questa cosa mi piace un sacco perché comunque è un onore per me, ma soprattutto se ripenso a quando ero più piccolo e mi sono approcciato così alla grafica e iniziavo a fare con mezzi veramente di fortuna copertine per i miei primi mixtape, eccetera, cioè a riguardare quel momento lì. Sicuramente ora, cavolo, sono super soddisfatto. Riesco quindi ad alternare varie anime anche lì. Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Mecna. I prossimi appuntamenti con RadioTube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16.